Storiacce di Raffaella Calandra. Ci siamo, è arrivato il momento. Si sente? Sembra un concerto. Purtroppo è arrivato questo momento che speravo che non arrivasse mai. Osannato, ribattezzato a furor di popolo l'ottavo re di Roma, e già era il principe, Francesco Totti ha celebrato con feste faraoniche il suo addio alla maglia giallorossa dopo 25 anni. Pianti veri e scene di giubilo si sono viste all'Olimpico, che ha giustamente salutato e onorato il suo capitano, senza dubbio uno dei più popolari calciatori ed atleti italiani. Popolare anche per la sua indiscussa simpatia, popolare e amato anche da schiere di ragazzini che continueranno però a vederlo anche così. Presidente, benvenuto nel suo nuovo ufficio. Presidente, le linee non sono ancora pronte, per adesso non c'è campo. Non c'è campo? E io come faccio a giocare? Non più pantaloncini e magliette, ma giacca e cravatta dietro una scrivania. Il pupone nazionale è infatti da tempo anche il presidente negli spot del 10 e l'8. E in fondo per questo è stato scelto, no? Per la pubblicità, proprio per la sua enorme popolarità. Quello che sto per dire, vi avverto, non piacerà a molti, lo so. E a dire il vero non piace neanche a me, che trovo Totti di una simpatia travolgente. Ma mi chiedo, un atleta come lui non avrebbe anche una forma di responsabilità proprio verso tutto il suo enorme seguito e soprattutto verso i più giovani che casomai proveranno a seguirlo anche in questo gioco? E la sua presenza come testimonial non aumenta ancora di più la responsabilità poi dello Stato, che fa cassa con giochi come questo, che rimpinguano sì le nostre esangui casse, ma che rovinano spesso molte famiglie? Perché dietro quello che nella pubblicità viene detto velocemente in coda, il gioco crea la dipendenza, ci sono infatti drammi seri e prolungati. Ed è questo quello che Storiacce ora vuole raccontare anche allo stesso Totti, e da cui parte questa puntata. Pensato che si potesse vincere abbastanza facile, no? Come purtroppo dice la pubblicità, ho cominciato a prenderne sempre di più, fino a quando non mi sono indebitato, fino al collo, prestiti, finanziarie, banche. Io dipendevo dal gioco. Lei ha fatto il conto più o meno di quanto ha speso in gioco? Ma io direi sui 70-80 mila euro. Quante cose si possono fare con 80.000 euro? Quando ora ci pensa, Fabio si mette le mani nei capelli. Sono già 8 anni che lui sta provando a disintossicarsi dai gratta e vinci, l'ossessione che stava trascinando nel baratro tutta la sua vita, ma almeno una volta ha avuto una ricaduta. E ancora non può dirsi fuori dal tunnel, e come lui, tantissimi altri italiani prosciugano conti, vendono beni, mandano all'aria le famiglie per colpa dei giochi. Giochi che invece rimpinguano le casse dei monopoli. Un azzardo di Stato sulla pelle degli italiani, ma è giusto secondo voi fare cassa così? Scriveteci se vi va sulla pagina Facebook di Storiacce o alla 349-238-6666. Francesco, ma non ti sarebbe piaciuto fare altro? Obiettivo oro, quarto piano. Ricevuto. Chi sei? Sono l'agente numero 10. Dov'è l'oro? Missione oro compiuta. Non l'ha visto nessuno. Quasi nessuno. Potevo fare l'agente segreto. C'avevo i numeri. 10 all'8, questo sì che è un gioco. Il gioco vietato ai minori può causare dipendenza patologica. È il pupone, Francesco Totti, il volto delle ultime pubblicità. Ma basta una raccomandazione finale detta così, velocemente. Il gioco può creare dipendenza per essere a posto con la coscienza e continuare a diffondere la cultura del gioco? L'Italia vanta il primato di slot machine, una ogni 143 abitanti, che hanno portato nel 2013 4,3 miliardi di euro nelle casse pubbliche, calcolano le agenzie delle entrate. Una cifra a cui ha contribuito anche Fabrizio, Fabrizio, che non vuole fare però il totale di quanto ha contribuito ai conti pubblici, azzerando invece i propri in quelle giornate infinite davanti alle slot machine. L'ho fatto così per fare una giocatina, dopodiché si fa una vincita abbastanza consistente, anche se con le slot machine chiaramente non è mai consistente, ma è qualcosa di effimero, però quel tanto giusto che ti porta a ripeterti, a cercare sempre di ritorno. Poi chiaramente vedi man mano che invece di diventare una soddisfazione diventa un'esigenza, e da quel punto di vista, ecco, dopo diventa tutta un rincorrersi per andare a giocare. Almeno 5.000 sarebbero ogni anno gli italiani in cura per ludopatia, la dipendenza dalle scommesse, un vizio che diventa una malattia e che come tale viene affrontata nei vari circoli dei giocatori anonimi, proprio come fanno gli alcolisti. E cominciare a frequentarli, come ha fatto Fabio 8 anni fa, è stato l'inizio di una lenta guarigione. E adesso sono circa 3 anni e mezzo che non gioco più. Ecco Fabio, lei a che età ha cominciato a giocare? Che tipo di gioco? Io ho iniziato a giocare che avevo circa 38 anni. Io giocavo alle gratta e vinci, perché purtroppo la vincita immediata mi ha portato a praticamente rovinarmi. Cioè il gioco era più forte della mia mente, cioè quello che dicevi il gioco che facevo. Posso chiedere quanto aveva vinto? Sì, 1000 euro. Dopo aver vinto quei 1000 euro, lei è andato avanti. Io ho pensato che si potesse vincere abbastanza facile, no? Come purtroppo dice la pubblicità. Ho cominciato a prenderne sempre di più, fino a quando non mi sono indebitato, fino al collo, prestiti finanziari, banche, amici. Quanto costa un tagliando del gratta e vinci? Ne prendevo una mazzetta alla volta, che costa 300 euro, quindi... Ogni giorno lei quanto spendeva per il gioco? A volte arrivavo a spendere anche 250-300 euro. Cosa significava per lei continuare a comprare sempre nuovi tagliandi? Andavo a letto, non dormivo e pensavo già alla mattina come fare per andare a recuperare i soldi che avevo perso. Quindi era un pensiero unico, cioè non potevo fare a meno di pensare ad andare a giocare. Si sentiva come una sorta di automa? Sì, sì, il gioco, io dipendevo dal gioco. E quindi al mattino lei come prima cosa andava in tabaccheria? Come prima cosa andavo in tabaccheria a giocare, mi fermavo, stavo lì un'ora, due, poi dopo ripartivo perché purtroppo c'è il lavoro, ho rischiato il posto, quindi io faccio il camionista, quindi avevo tempo di fermarmi anche. Ma che significa avere l'ossessione del gioco? È indescrivibile, cioè la voglia che uno ha per andare a grattare, per andare a giocare a una slot, per andare a fare una scommessa. Cioè, ad esempio, se ho capito bene, quando lei appunto faceva il camionista, ad ogni autogrill in cui si fermava, casomai per una sosta oppure per fare benzina, il suo pensiero era quello di tentare la fortuna con altri gratta e vinci, oppure al mattino e la sera il suo pensiero era quello di capire come racimolare altri soldi per andare a comprare altri tagliandi, più o meno così. Esatto, proprio accentrato l'obiettivo, cioè l'unica cosa a cui si pensa è aver denaro per poter andare a giocare, cioè in maniera sporca, in maniera pulita, cioè io devo cercare soldi in tutte le salse. Un'ossessione, quella del gioco, che ha portato allo sfascio molte famiglie, ha costretto migliaia di persone ai debiti e talvolta spinto all'orlo del suicidio. E anche su storie come questa di Fabio, però, le casse dei monopoli si arricchiscono e tutto è esploso ancora di più con il boom del gioco in rete. Solo l'anno scorso, secondo stime dell'Associazione per lo studio del gioco d'azzardo, gli italiani hanno speso 88 miliardi, pari a 70 milioni di giornate lavorative, riflette il presidente dell'Associazione per lo studio del gioco d'azzardo e dei comportamenti a rischio, Maurizio Fiasco. Lo scorso anno si sono inserite nelle varie modalità del gioco con alea, composte in denaro, chiamiamolo gioco d'azzardo, circa 90 miliardi di euro, 88 e 500 per la precisione, poi c'è il nero ma non ne parliamo. Questo gioco attuale, che si basa sulla ripetizione all'infinito delle operazioni di gioco, cioè non si punta ad avere una grande vincita saltuaria, è un gioco contrassegnato da un'altissima frequenza con continui premi di entità irrisoria, che però hanno la funzione di alimentare la propensione al gioco. Questi 88 miliardi sono la risultante di 70 milioni di giornate lavorative impiegate. Per consumare questi 88 miliardi ci vogliono 70 milioni di giornate lavorative. Cioè 88 miliardi è la spesa degli italiani per il gioco d'azzardo nel 2015. Fatto una media ponderata, per spendere questi 88 miliardi non è che si mettono tutti sul tavolo come in un saloon di un film western, ci vuole una frequenza di gioco. Ecco, la dipendenza è in rapporto al denaro, ma soprattutto al tempo di vita, perché il meccanismo che crea dipendenza è legato a questa intermittenza della gratificazione, cioè una gratificazione reiterata, modesta, inseguita e provata, perché ogni giocatore ha momenti di gratificazione che si alternano a momenti di frustrazione. Il vecchio gioco era basato su un'alternativa secca: si vince o si perde. Questo gioco serve invece a mantenere molto tempo di impegno alla postazione. Davanti a una slot machine si passano ore, nei bar, nelle tabaccherie ci sono persone anziane e meno anziane che comprano scatole di gratta e vinci, se li portano a casa e poi grattano uno dopo l'altro questi 100 tagliandi. E il lotto, ecco, non si gioca più il sabato, ma si gioca ogni 10 minuti, quindi la variabile tempo va messa in rapporto alla variabile denaro. Ecco, lei ha messo e ha citato appunto alcuni di quelli che sono i giochi più diffusi, le slot machine, il lotto, il gratta e vinci. Andiamo un po' a vedere anche le differenze che ci sono da questi, e questi sono tutti giochi di Stato, diciamo, giochi oltre che leciti, in qualche modo giochi in qualche modo anche favoriti anche dallo sì. Stato che ci guadagna. Ecco, l'Italia ha ad esempio un primato non proprio di quelli onorevoli, che è quella di avere una slot machine ogni 143 abitanti. Si può dire che questo è il gioco più diffuso? La metà di questi 88 miliardi sono andati alle slot machine. Sicuramente è il gioco più popolare, più diffuso, più facile, più reiterato e diffuso capillarmente. Poi c'è il fenomeno emergente, insomma un fenomeno che sta maturando molto, del gioco online, per capirsi, quello che si gioca col telefonino, con lo smartphone, che si gioca col computer, con il tablet. E lì abbiamo un gioco interamente progettato per essere consumato online e un gioco tradizionale in modalità online. C'è il lotto online, c'è la slot machine online, c'è il gratta e vinci online, c'è addirittura il bingo online. E allora cosa fa lo Stato davanti ad una malattia sempre più diffusa come la ludopatia, che da una parte fa arricchire le sue casse e dall'altra manda in rovina migliaia di italiani? Da cui ripartiamo nella seconda parte di Storiacce. Storiacce. Ti piace vincere facile? E anche di più? Basta camminare in una strada di una qualsiasi città e buttare lo sguardo dentro bar e tabaccherie. Basta allungare la vista per notare subito le luci colorate delle slot machine e ascoltare l'inconfondibile rumore della leva che si abbassa, delle caselle che si allineano e delle monete che cascano giù in caso di vittoria, raramente. Anche se il decreto Balduzzi stabilì che dovessero essere distanti almeno 500 metri dalle scuole, il loro numero resta altissimo, tale da conservare all'Italia il primato di slot machine, tanto che c'è pure qualche sindaco che in autonomia ha deciso di portare ad almeno un chilometro la distanza di sicurezza rispetto a scuole, oratorio, comunque rispetto a luoghi frequentati dai più giovani. È giusto, certo, prevenire, come si dice. In realtà però le storie di chi si è rovinato con slot machine, bingo, gratta e vinci e lotterie varie dimostrano che a cadere di più sono soprattutto gli adulti, come Fabio, che nei gratta e vinci ha speso 80.000 euro, o come Fabrizio, che alle slot ha giocato eppure perso il suo matrimonio. Il mattino partivi con ti svegliavi con la voglia di giocare, partivi proprio col pensiero che dovevi fare di tutto quello che potevi per avere i soldi per giocare. Quindi partivi con già nascondere le cose ai tuoi familiari e anche il datore di lavoro, insomma tutto che coincidesse per far sì che poi arrivavo a fare la giocata. La giocata normalmente era sui 50 euro, dovevo accumulare, facendo la cresta su tutte le cose che mi capitavano attorno. Ci faccia degli esempi concreti. Se andavo a fare la spesa, mi dicevo quanto avevo speso e quei 10 euro ci saltavano sempre fuori. Gestivo io chiaramente tutto il conto è stato con la mia ex moglie, perché mi sono anche separato, anche per questo problema. Tutto quello che poteva essere il cercare di fare le cose, anche pur di avere una cifra da poter andare a giocare, questo era il pane quotidiano, ecco, tutto qua. Lei ha detto anche per colpa del gioco si è rovinato il suo matrimonio. Sì, perché comunque questa malattia si radica completamente dentro di te, e se una compagna cerca di trattenerti, cerca di avere il controllo su di te, che tu invece vuoi avere il controllo su tutto, ecco, questo è un conflitto interno che ti crea un problema e dopo scombina le cose. Cioè lei ha detto che si faceva la cresta sulla spesa, ma anche, in casa racimolava dei soldi? Beh certo, indubbiamente, poi proprio anche ho svuotato anche conti familiari, nel senso che pur di avere il soldo per giocare, chiaramente, dovevo svuotare, perché non potevo andare avanti solo con lo stipendio, anche perché poi alla fine del mese si vedeva, quindi pian piano si faceva dei piccoli prelievi nel conto. La facilità con cui è possibile giocare in qualche modo peggiora la situazione? Assolutamente, rispetto alle slot machine poi è una cosa pazzesca, perché fanno musica, fanno canzoni, musiche, fanno luci che attraggono proprio, sono messaggi subliminali. Ti attraggono, ecco, poi è difficile trattenersi, come se uno non vuole mangiare la Nutella e c'è sempre il barattolo davanti, prima o poi un dito ce lo sbatte, ecco, per mangiarsi. Nel difficile tentativo di continuare a fare cassa e cercare di arginare il fenomeno, che comunque ricade pure sulla sanità pubblica, il governo più volte ha pensato di modificare la tassazione su parte del gioco d'azzardo e di ridurre il numero delle macchine. Gli obiettivi sono la tutela della salute, la lotta all'illegalità e l'attenzione alle entrate, elenca il sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta, che ammette come ci sia un eccesso di offerta in alcune situazioni e troppa diffusione. Come avete sentito, anche i malati di ludopatia, loro stessi lo dicono, come la grande diffusione e la pubblicità peggiori tutto. La conferenza Stato-Regioni dovrebbe stabilire i criteri per il numero e il posizionamento delle postazioni di gioco, ma urgono provvedimenti, sollecita Maurizio Fiasco, presidente dell'Associazione per lo studio del gioco d'azzardo e dei comportamenti a rischio. Un provvedimento dello Stato centrale che contingentasse sia come quantità sia come spazio le slot machine e le altre installazioni di gioco. Un provvedimento non c'è stato. Nel frattempo, però, centinaia di comuni hanno cominciato a regolamentare, sia con ordinanze sia con veri e propri regolamenti comunali. Questi regolamenti e queste ordinanze, fino alla metà dello scorso anno, di solito erano sfortunati, cioè di fronte a ricorsi amministrativi al TAR o al Consiglio di Stato venivano poi cassati e quindi si erano costretti a revocarli. La seconda metà dello scorso anno ad oggi la tendenza si è completamente invertita, cioè le magistrature superiori, il Consiglio di Stato, la Cassazione e anche la Corte Costituzionale stanno sempre più spesso dando ragione ai comuni che appunto mettono dei criteri di separazione del gioco dai luoghi della quotidianità. La separazione può avvenire anche semplicemente separando gli orari, non solo le distanze fisiche, per capirsi. Quindi è una fase di transizione molto aperta e vediamo che novità, insomma, se quello che è previsto nella legge di stabilità sarà attuato o meno. E lei, come appunto presidente di un'associazione che studia il gioco d'azzardo, quindi anche le ricadute, i rischi e gli effetti sulla società di questo, che in realtà è un problema sempre più diffuso e serio, in particolar modo adesso in tempi di crisi, secondo lei quali dovrebbero essere i provvedimenti necessari? per tenere insieme anche le opposte esigenze, da una parte sì, quella certo. diciamo di conservare l'esigenza dello Stato di fare in qualche modo anche cassa e dall'altra anche certo. quella di cercare di salvaguardare le persone. La priorità delle priorità è che di rendere finalmente disponibile ai cittadini italiani che hanno una sofferenza da dipendenza di gioco d'azzardo un'offerta reale di servizi, perché abbiamo qualche iniziativa pionieristica, ma di fatto se oggi una famiglia che ha un congiunto, una persona vuole uscire da una spirale di dipendenza non sa a chi rivolgersi, salvo poche offerte sparse qua e là per la penisola, e quindi rendere accessibile la terapia. L'altra priorità è che si vada a vedere come è costruita la macchina del gioco, cioè si vedano nei singoli dispositivi, slot machine, online, gratta e vinci, eccetera, com'è la struttura che crea dipendenza, crea disturbi alla salute. Vedendo questa struttura si fissino delle regole perché non faccia male, perché appunto gli interessi in gioco vengano bilanciati. Non è possibile che si costruiscano, insomma ci siamo tutti scandalizzati per la vicenda della Volkswagen che con gli algoritmi falsava i dati sulle emissioni. Ecco, io vorrei sapere questi dati all'interno degli algoritmi delle macchine da gioco come sono strutturati, perché se sono strutturati per fidelizzare, facciamo l'ipotesi, per fidelizzare i consumatori attraverso la dipendenza da gioco d'azzardo, devono scattare delle misure di salvaguardia che l'ordinamento costituzionale prevede. Non si può mettere a repentaglio la salute dei cittadini. Ecco, bisogna entrare concretamente nel merito, come sono progettate, come sono costruite, come sono offerte, come sono fatte funzionare. Se da sempre il gioco è una parte importante della vita di tutti noi, la dipendenza però è una malattia e lo è sempre stato anche nei tempi del mito. Linea allora alle mitiche storiacce e a Giorgio Ioranò, professore all'Università di Trento e autore per Sonzogno di saggi sulla mitologia classica. Mitiche storiacce. Anche gli antichi sapevano bene cos'era la ludopatia. Prendete il gioco degli astragali, ossicini di animali usati come dadi con quattro facce, l'1, il 3, il 4 e il 6. Ci si divertivano i ragazzi, ma anche gli adulti li usavano per giocare d'azzardo, tirandone quattro alla volta. Il colpo peggiore era quello del cane, 4 volte 1. Il colpo migliore era detto di Afrodite o di Venere, quando uscivano tutte facce diverse. Giocava la gente comune, ma giocavano anche gli imperatori. Augusto era un appassionato, passava ore dopo cena a giocare con gli amici e scommetteva un denario d'argento a ogni tiro di dadi. Giocavano anche i sacerdoti, che usavano il lancio dei dadi anche per trarre profezie, lanciando gli astragali davanti alla statua di Dio. Ma giocavano anche gli dei stessi e gli eroi. Uno dei vasi dipinti più belli della Grecia antica, che sta al Museo Vaticano, mostra Achille e Aiace, i più grandi eroi della guerra di Troia, che giocano a dadi in una pausa della battaglia, con le lance appoggiate sulle spalle. Il pittore ha disegnato come fossero fumetti anche i numeri che escono dalla loro bocca. 4, dice Achille, 3, grida Aiace. Ma il giocatore più accanito era Eros, il dio dell'amore, scugnizzo, impertinente e furbo. I poeti raccontano che sull'Olimpo passava il tempo giocando a dadi con Ganimede, il ragazzo bellissimo che serviva a tavola come cocchiere degli dei. Vinceva sempre Eros. Perché? Perché Eros era un baro, aveva truccato i dadi. L'amore, si sa, non gioca mai secondo le regole. Per riascoltare questa, come tutte le altre puntate di Storiacce, il sito è radio24.it. Ci trovate anche sulla pagina Facebook di Storiacce o su Twitter l'account è Raf Calandra. Ciao a tutti, a presto!